Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, apriamo la stagione di Palla Spicchi. Gigi Borghi in redazione, Filippo Aureggi in regia, Flavio Suardi qui vicino a me. Ciao Flavio. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Ma soprattutto l'apriamo alla grandissima con il commissario tecnico della nazionale italiana di basket, Charlie Recalcati, che è qui e che ringrazio. Ciao. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. E partiamo da un campionato che non comincerà. Notizia di oggi, non comincerà nei tempi prestabiliti. 5 di ottobre era la data fissata per l'inizio del campionato, però la Camera di Conciliazione Arbitrato del CONI questa mattina ha rinviato al 1 di ottobre la decisione su Napoli. E Capodorlando, immagino che è in discussione in questi minuti. Napoli e Capodorlando che insomma sono grosso modo nella stessa posizione, non hanno pagato quanto dovuto all'Empas, ci sono le prove, non so cosa si debba aspettare ancora, ma comunque federazione commissariata, nazionale, adesso ne parliamo con Charlie, al momento fuori dagli europei e con l'obiettivo di giocarci la qualificazione la prossima estate, campionato in alto mare come la nave da crociera su cui verrà un po' comicamente presentato comunque domenica, no? Comicamente perché appunto oggi Napoli e Capodorlando sono in questa situazione, non si sa ancora chi gioca, quando si gioca, eccetera eccetera eccetera. Cosa dice Sabatini? Sì, dice su un'intervista, uno stralcio di un'intervista sul Corriere dello Sport di oggi a firma Claudio Limardi. Sabatini dice: adesso non so cosa andiamo a presentare a bordo di una nave che somiglierà tanto al Titanic. La speranza è che, vista la data sbagliata tra mondiale di ciclismo, Inter Milan, Formula 1 e MotoGP, e soprattutto e anche campionato di volley, questa cosa passi inosservata e sarebbe un gran colpo di fortuna. Secondo me non c'è sintesi migliore di questa. 800 24 00 24 per intervenire, per parlare con noi. Charlie, serve una rivoluzione, ho l'impressione. Ma serve la rivoluzione, serve sicuramente cercare di porre una linea, fermarsi un attimo e riprogettare, riprogrammare il movimento della pallacanestro italiana, che sicuramente ci sono tanti indizi che chiaramente dimostrano che le cose non vanno. La squadra nazionale è stata quella che ha fatto attività negli ultimi mesi e quindi è stata sotto l'occhio di tutti. Molti si sono accorti di quanto questa squadra abbia sofferto il fatto di non essere competitiva a sufficienza per poter conquistare l'obiettivo che volevamo. E questo è sicuramente il fatto che è balzato di più all'occhio. Però poi dopo, successivamente, sono arrivate appunto le esclusioni delle società, e poi sono venute le dimissioni, prima dei consiglieri, poi del presidente della federazione. Siamo in attesa martedì che il CONI si pronunci sulla persona del commissario, e quindi credo che comunque saremmo stati davanti a un momento di riflessione e di decisioni, perché comunque sarebbe stato così con le nuove elezioni, con gli eventuali candidati per la presidenza, con programmi, con idee possibilmente diverse di cui abbiamo assolutamente bisogno. Però adesso è precipitato tutto e quindi dobbiamo un po' anticipare i tempi, però credo anche che sarebbe sbagliato, perché è precipitato tutto, fare le cose in fretta. Credo che il tempo necessario perché si preparino le strategie ci deve essere, strategie che chiaramente erano già in atto, perché sennò non si capirebbe queste dimissioni a catena se non ci fossero state già delle decisioni prese o comunque delle strategie, però devono essere messe a punto. Bisogna pensare ai problemi della nostra pallacanestro, che sono effettivamente tanti, che per me, che sono all'interno e che ho avuto e ho una posizione di privilegio dal punto di vista dell'osservazione come osservatorio, sono molto evidenti, non sono evidenti per tutti, oppure vengono inquadrati alcuni aspetti rispetto ad altri a seconda dei ruoli che si hanno, ma io credo che si sia arrivati al momento in cui sia necessario effettivamente fare una rivisitazione del nostro movimento. Io te l'ho chiesto la settimana scorsa al telefono, torno a farlo. secondo me rivoluzionario sarebbe vederti presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. So che vuoi fare l'allenatore, però quello sarebbe rivoluzionario, ma per lo sport italiano, eh? Guarda, io sono estremamente gratificato delle attenzioni e dei consensi che si sono coagulati attorno alla mia persona e alla mia figura da questo punto di vista, e non può che farmi assolutamente piacere. Mi gratifica perché mi conferma una volta di più che comportandosi in modo corretto, in modo onesto, in modo cristallino, in modo lineare, poi alla fine ci si guadagna appunto in consensi. Però io ho un mio identikit di quello che dovrebbe essere il presidente futuro, ed è un identikit di una persona giovane, perché c'è molto da fare, bisogna avere tante energie, non solamente dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista nervoso. Deve essere un personaggio giustamente ambizioso, deve essere però soprattutto, e io dico giovane proprio per questo, deve essere uno che, pur essendo a conoscenza delle problematiche e delle dinamiche della politica sportiva, non è ancora contaminato da queste, non è ancora legato al carro di nessuno, e soprattutto deve essere uno che, oltre a conoscere le problematiche della politica del basket e sportiva, deve avere una profonda conoscenza ad esempio delle problematiche dei settori giovanili. Io credo che ci sia in Italia, ci siano, perché non, chiaramente non può essere solamente uno, ci siano personaggi di questo spessore in grado di avere il consenso da parte del movimento. Per cui ritengo che debba essere una figura così che va. Io sono gratificato, ci penso, non mi è ancora stata formulata una proposta, sì, di questo tipo qua. Se sarà un personaggio di questo tipo, sinceramente io continuerò molto, ma molto volentieri, a fare l'allenatore. Lo vorrei fare, vorrei continuare a dare una mano al nostro movimento per una cosa che ritengo di saper fare. Ma se così non fosse, magari valuterò al momento, quando si conosceranno i candidati. Charlie, si dice sempre in occasione o delle grandi vittorie o delle grandi sconfitte o delle grandi rivoluzioni della nostra pallacanestro che si tratta di un'occasione da non perdere. Questa però è una situazione davvero, davvero disastrata da come la stiamo raccontando, e mentre tu tracciavi quell'identikit del presidente federale ideale, io sinceramente me ne veniva in mente qualcuno che potesse essere progettato a un computer direttamente, cioè non me ne viene in mente uno in carne ed ossa con quelle caratteristiche. No, fortunatamente per la nostra pallacanestro ha prodotto e sta producendo dirigenti di questo stampo e con queste caratteristiche. Io credo che dobbiamo giustamente essere preoccupati, però non dobbiamo essere pessimisti. Insomma, io credo di essere passato per pessimista negli ultimi anni, perché cercavo di tracciare e portare all'evidenza di tutti dei problemi che chiaramente c'erano, che oggi sono sul tavolo. Mi viene riconosciuto che purtroppo avevo ragione, però io dico che nello stesso modo in cui potevo sembrare pessimista anni fa dicendo che cosa sarebbe successo, nello stesso modo mi sento di dire e di essere ottimista, perché credo che tutte le parti della pallacanestro italiana si siano resi conto che è un problema, è un momento in cui non si può scherzare, è un momento in cui ognuno deve cercare di fare la propria parte, e se si parte da un presupposto di questo tipo, dove ognuno cerca di fare il bene della pallacanestro e non il proprio interesse personale, è un modo per poter iniziare. È chiaro che nel momento in cui ti trovi a riprogettare un movimento, devi sapere anche che non devi guardare in faccia nessuno, devi essere disposto a far del male, devi trovare compagni di percorso o non che siano disposti a rinunciare a qualche cosa. Se non trovi chi è disposto a rinunciare a qualcosa, tu devi avere la forza, come dicevo, di imporre e di fare del male. Credo che siamo in un momento in cui sia necessario rivedere, insomma, molte cose. Sono consapevole del fatto che il nostro è un movimento anomalo, che è stato sovradimensionato per troppo tempo. Abbiamo troppe squadre professionistiche, perché spesso erroneamente ci si ferma a parlare delle due leghe professionistiche e ci si dimentica che invece ci sono tante società e tanti club nelle serie minori che sono tali. Sì, sì, lo dice anche Gherardini in un'intervista oggi sulla Gazzetta dello Sport, due passaggi che ho sottolineato, sì, che poi Maurizio, vi leggo, che sono e Maurizio sono commette un errore, perché, se mi posso permettere, Maurizio è una persona talmente preparata e intelligente che non sbaglia quasi mai. Però in questo caso ha commesso un errore, perché parla che sono troppo 34 squadre, sì, professionistiche, e dimenticando che, appunto, come dicevo prima, le squadre tali sono molto di più. Credo che siamo una nazione, la nazione al mondo che ha più realtà professionistiche, certo, rispetto a e questo, alle e questo altre. Non era più ulteriormente sopportabile. Abbiamo però anche degli ascoltatori in linea, sentiamo la loro voce. Provincia di Cremona, Stefano, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, innanzitutto complimenti a Radio 24 per lo spazio che dedica alla pallacanestro, e mi auguro che il nuovo direttore riesca anzi ad aumentarlo. Siamo qua. E poi volevo chiedere questo al nostro, per il momento, coach ancora della nazionale, se, come se fossimo in un time out, volesse con grande concretezza, come quando guida una squadra, dirci quali sono le tre cose fondamentali che si dovranno fare subito per rilanciare la nostra pallacanestro, e quali sono invece i tre grandi errori commessi sino ad oggi. Ve lo chiedo perché parlo da dirigente, noi affrontiamo ogni giorno problemi molto concreti, molto precisi e anche molto importanti, e vorremmo delle risposte adeguate alle vicende che affrontiamo tutti i giorni. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Time out, tre cose. Sì, se mi fossi preparato su queste cose vorrebbe dire che avevo cominciato a pensare da presidente, esatto, non l'ho fatto e quindi cerco di svilupparle su due piedi. Sicuramente una cosa di cui ha bisogno il nostro movimento è di una riforma dei campionati, e questo credo che sia un dato di fatto, ma proprio in conseguenza anche del fatto che non è possibile che ci siano così tanti club pseudo professionistici. Quindi una riforma dei campionati è necessaria, e una riforma dei campionati vuol dire anche trovare lo spazio per un campionato dove i giovani possano crescere, possano maturare. Finora la Lega Nazionale obiettivamente ha agito in questo senso, bisognerà vedere poi se il loro progetto riuscirà ad arrivare a compimento, però se non altro ci hanno pensato. Io credo che sia necessario un campionato intermedio, credo che Maurizio nella sua intervista ha accennato a qualcosa di questo tipo, sì, sì. Non è assolutamente una novità assoluta in Europa, avremmo potuto essere noi i primi a farlo, perché noi del settore squadre nazionali l'avevamo proposto 4 anni fa, poi non venne preso in considerazione, la Spagna lo ha recepito e lo ha fatto suo, e quindi da questo punto di vista qua abbiamo bisogno che le squadre professionistiche si impegnino sostenere assieme alla federazione un campionato dove far giocare i migliori under che ci siano in circolazione. Abbasserei l'età delle giovanili in conseguenza di questo, perché è chiaro che, sì, è necessario creare un campionato prima che, però abbasserei l'età delle giovanili e lo riporterei a regime con quello che è l'età dei FIBA, sì. E quindi tornerei ad avere il limite di età under 18, e è importante, terza cosa, è necessario aumentare i parametri. Tre grandi errori che sono stati commessi? Ma tre grandi errori ce ne sono stati talmente tanti, ce ne sono stati tanti. Ma forse dire tre, se ne escludono degli altri, non so se più grandi o meno grandi. Beh, il primo errore è stato il fatto di sottovalutare la situazione, e quindi parlo per quello che mi compete. È farsi abbagliare dalle medaglie, dal fatto che si era vinto, e che questo fosse la dimostrazione che era tutto sano, mentre invece i problemi che in questo momento si evidenziano si vedevano già allora, e questo problema è stato sottovalutato. Un altro errore sicuramente è stato, ma io dico, il fatto che non si sia riusciti a trovare un sistema perché una ripresa dei settori giovanili, che effettivamente c'è stata, fosse generalizzata e che coinvolgesse in modo totale le squadre professionistiche. Ma io il terzo errore, però, per esempio, uno di quelli che imputava Gherardini in quell'intervista, per esempio, è dice: secondo me non dovremmo più imporre alle squadre di club di avere dei parametri per la costruzione, cioè, quindi arriviamo alla solita questione, cioè di non garantire minuti o quintetto agli italiani. Questo è un tema importantissimo. Ma guarda, questo è sicuramente un problema. Io credo che molte squadre e molte società si sono lamentate di questo fatto qua, e pensando all'aspetto economico, quindi pensando nel momento in cui viene garantito un posto o un certo tipo di giocatore viene protetto, come può essere il giocatore italiano, automaticamente aumentano i costi. Io credo che da questo punto di vista qua il pericolo non c'è e non ci dovrebbe essere. Se fossimo in una realtà dove, ad esempio, tutte le squadre, tutti i club che fanno parte della stessa Lega fossero capaci di trovare un accordo, perché credo che, io so che c'è stato un giocatore della squadra nazionale che ha cambiato club durante l'anno, e Siena era molto interessata. Però Siena si è data una linea propria di comportamento e non vuole pagare i giocatori, che siano italiani o che siano stranieri, più di una certa cifra, ed è rimasta fedele a quelli che sono i suoi principi, e questo giocatore non l'ha preso. Però credo però che se facciamo valere la legge del mercato, quindi le leggi che ci sono, le leggi comunitarie, cioè libera circolazione dei lavoratori professionisti, facciamo valere le leggi del mercato, gli italiani guadagnano quanti comunitari, vengono valutati e presi in base al loro valore. Io credo che a quel punto, e qui non sono d'accordo con Bonicioli che dice alla gente non interessa se uno è italiano o armeno, io credo che alla gente interessi. Credo che tornerebbe a vantaggio degli stessi giocatori italiani un discorso di questo tipo. Perché questo... io preferisco fare una squadra di italiani che una squadra di bielorussi o ucraini o altri giocatori. Io credo che, voglio dire, al di là di quello che può essere logicamente o teoricamente giusto, bisogna anche un pochino andare a vedere, attenersi a quella che è la realtà, e soprattutto andare a vedere che cosa succede poi anche negli altri paesi. E gli altri paesi stanno affrontando gli stessi problemi nostri e stanno cercando di affrontarli mettendo delle regole che ritengono più opportune, tra le quali c'è anche il fatto di avere un occhio di riguardo per i giocatori che sono eleggibili per la squadra nazionale, e quindi gli italiani in Italia. Uh-huh. In Israele è una nazione che sta soffrendo, come stiamo soffrendo noi, ad esempio, del problema dell'impiego dei giocatori israeliani, sta soffrendo dell'impiego dei giocatori giovani, e loro hanno messo una regola dove un giocatore israeliano è sempre in campo nel campionato di Serie A e un giocatore under 22 è sempre in campo nel campionato, nel campionato di Lega 2. Ci sono realtà come la Spagna dove riescono a parlare di eleggibilità, nella Grecia dove riescono a parlare di eleggibilità, ci sono nazioni come l'Ucraina dove è diventato presidente un ex giocatore, Sasha Volkov, e la prima cosa che ha fatto, ha preso coscienza del problema e ha messo un giocatore ucraino sempre in campo. La Russia lo sta facendo da tempo, chiaramente con le problematiche che nascono e che sorgono, perché nessuno disconosce questo, però il problema è che qualcosa bisogna fare. Allora, il problema secondo me va affrontato in modo diverso, bisogna, questo è, voglio dire, uno stratagemma per risolvere il problema oggi. Noi dobbiamo cercare di lavorare perché si risolvano i problemi domani. Certo, e quindi strutturale. Dobbiamo vedere che cosa, il perché ci si trova in una situazione del genere. Sicuramente ci si trova in una situazione del genere perché ci sono pochi giocatori. E nel momento in cui ci sono pochi giocatori, e essendoci una certa domanda, automaticamente tra domanda e offerta, chiaro, succede quello che succede. Allora, la prima cosa è dire: abbiamo pochi giocatori, che cosa facciamo? Abbiamo due strade e io credo che, primo, produrre più giocatori, e questo credo che sia un fatto inconfutabile. Produrre più giocatori, produrre giocatori di qualità. Perché i giocatori diventino di qualità come media, chiaramente bisogna creargli un percorso formativo completo, certo, e che gli dia la possibilità poi di maturare non solamente fino a 18-19 anni, ma di continuare la propria maturazione. E qui arriviamo al discorso del campionato intermedio, che sarebbe, esatto, che sarebbe quello che ci permetterebbe di risolvere un po' di problemi. Io dico anche che se a un certo momento, e non credo che sarebbe un problema nel momento in cui tu dici le società trovano un accordo tra di loro e dicono: per una certa fascia di giocatori non vogliamo spendere più di X, devono essere capaci di poterlo fare. Allora la domanda è quella: ma forse così rischieremmo di perdere i giocatori perché andrebbero all'estero? Benissimo, vadano all'estero. Vuol dire che a quel punto lì si apre uno spazio per giocatori più giovani o meno affermati per poter giocare. Però volevo finire questo rapidamente. Primo, produrre più giocatori. Secondo, se ci sono pochi giocatori, riduciamo il numero delle squadre. Chiaro. Palla spicchi. Torniamo, con noi Charlie Recalcatic, ti darà nazionale italiana, e io continuo a augurarmi il prossimo presidente federale, ma non sarà così, non vuole. Proveremo a convincerlo prima o poi. Però in coda già da un po' c'è un ascoltatore che voglio far parlare subito. 800240024, anche un sacco di messaggi. Alberto da Udine, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Ma grazie per l'attesa, dica. Un saluto, un abbraccio al coach Recalcatic, anche un grazie per quegli splendidi tiri scoccati dall'angolo che con parabole perfette abbattevano qualsiasi zona. Fino a un paio d'anni fa. Vorrei affrontare un aspetto tattico, non so se è già stato affrontato e me ne scuso nel caso. La partita che dovevamo vincere di 2 punti dell'Italia, sì, ahimè persa di 1, mi ha fatto sobbalzare dalla sedia quando ho visto che il primo libero, ahimè, è stato sbagliato. E nessuno dello staff tecnico ha detto che il secondo tiro avrebbe dovuto essere sbagliato, perché la palla e il possesso lo avevamo noi, e è successo quello che purtroppo è andata così, abbiamo sbagliato, ma avremmo potuto giocarsela ai supplementari. Non capisco perché lo staff tecnico non ha detto che quel tiro, il giocatore lo posso capire, ma perché è stato segnato, visto che la palla l'avevamo noi, e proprio quel tiro ci ha condannato, proprio quel canestro. Avremmo potuto giocarsela ai supplementari e secondo me forse ce l'avremmo fatta. Vi ringrazio, ascolto per radio. Innanzitutto grazie, dai tuoi ricordi devo pensare che non sei giovanissimo. Anzi, ringrazio della domanda, perché su quegli ultimi secondi, su quell'ultima azione, se ne sono dette effettivamente tante. Ognuno è giusto che abbia la propria idea, e credo che la pallacanestro si presti anche a diverse interpretazioni, per cui ringrazio, perché così almeno posso raccontare il mio pensiero. Io non capisco perché avremmo dovuto sbagliare quel tiro libero, nel momento in cui appunto avevamo noi la palla in mano, avevamo la possibilità di andare a trovare un canestro oppure di prendere addirittura un tiro libero. Per cui non vedo, sinceramente, non sono assolutamente, non ero d'accordo, perché non ci ho neanche pensato, e pensavo che fosse giusto così. Diverso sarebbe stato se non avessimo avuto il possesso. Invece avevamo il possesso, abbiamo fatto la nostra azione, abbiamo messo la palla nelle mani del giocatore che nella partita aveva dimostrato di essere migliore di altri nel penetrare, nel battere l'uomo uno contro uno, nel procurarsi dei falli, e questo è stato. Per cui non credo, ecco, che ci siano tante altre cose da dire. Noi volevamo vincere la partita di 2 punti, possibilmente di 3, possibilmente di 4, e poi spiego perché, e avevamo la possibilità di farlo. Credo che fosse più importante cercare di vincere di 2 o di 3 o di 4 partendo da +1 piuttosto che da 0. Effettivamente noi avevamo concretamente la possibilità, non avevamo bisogno di ricorrere ai tempi supplementari per poter vincere una partita di 2 punti. Noi avevamo concretamente la possibilità di vincere la partita di 2, di 3 o di 4 perché avevamo la palla. Credo che nessuna squadra al mondo rinuncerebbe alla possibilità di avere l'ultimo pallone da giocare e essere padrona del proprio destino. Quello che però mi preme dire è che per la nostra qualificazione non sarebbe stato sufficiente, e perché appunto approfitto, perché chiaramente ci sono state poi altre considerazioni, altre valutazioni. Noi quella partita, chiaro, con il senno di poi, avremmo dovuto vincerla di 32 punti per poterci qualificare. Vincerla di 2, di 3, di 4 ci avrebbe dato la possibilità per 3 giorni di essere secondi e quindi di poter sperare di qualificarci, però poi dovevamo passare, nell'attendere, la partita che la Bulgaria avrebbe giocato contro la Serbia, e l'avrebbe giocata non da qualificata, ma da squadra che doveva vincere per qualificarsi, quindi poteva esserci un risultato diverso rispetto a quello che poi c'è stato. Ma soprattutto noi eravamo vincolati a ciò che sarebbe successo negli altri gironi, perché noi avevamo una differenza canestri bassa, negativa, e appunto vincere di 2, di 3, di 4, ecco perché io dico che piuttosto che vincere di 2 sarebbe stato meglio vincere di 4, perché ci avrebbe dato la possibilità di ridurre la nostra differenza canestri negativa, però non sarebbe stata sufficiente. Quando noi abbiamo finito il nostro girone e le altre squadre dovevano ancora giocare una partita, eravamo in una situazione dove un girone aveva già una seconda che era meglio di noi. Nel girone della Francia, la Francia aveva una differenza canestri positiva, e quindi era difficile pensare di poter superare la Francia. Rimaneva l'altro girone, che è quello che poi ha qualificato Israele, con la partita che è finita con Israele vincitrice di 37 punti, però noi eravamo ad esempio in una situazione di meno 16 dopo la partita con la Bulgaria. Si affrontavano Israele e Repubblica Ceca, e tutte e due avrebbero potuto qualificarsi o vincere la partita, e una era a meno 3 e l'altra era a meno 4, il che vuol dire che se quella partita fosse finita ipoteticamente con un punto di differenza, una nostra vittoria contro la Bulgaria di 14 punti non sarebbe stata sufficiente. Ecco perché, devo dire, alla fine la cosa di cui ci siamo preoccupati, e io mi sono preoccupato che la squadra fosse sensibilizzata sul fatto di vincere la partita, chiaramente di 2, di 3, di 4 punti, più che pensare che avremmo dovuto vincerla di 20 punti. Certo. quello sarebbe stata una conseguenza che sarebbe venuta poi durante la partita, se la partita si fosse messa in un certo modo, e allora ci saremmo sensibilizzati in un obiettivo successivo. Però ecco, tornando alla domanda del nostro ascoltatore, credo proprio che rifarei la stessa cosa in una situazione simile. Io voglio sempre giocarmi il mio destino con la palla in mano. No, sicuro, cioè, infatti, e poi tra l'altro si poteva anche rischiare da quel punto di vista. Sì, si possono dire tante cose, però la verità è che poi la soluzione era quella ed era la migliore. Ma noi avessimo sbagliato quel tiro per andare ai supplementari, la squadra avversaria avrebbe fatto subito fallo, probabilmente. Chiaro. E saresti andato in lunetta. E saremmo andati in lunetta e avremmo sbagliato ancora due tiri, e sul secondo tiro la squadra avversaria poteva prendere il rimbalzo e poi dopo o noi fare fallo sul rimbalzo o loro andare in contropiede e fare canestro, voglio dire. Pallacanestro è bella proprio perché ci sono tante possibilità, no? Io credo che bisogna credere in quello che si fa e portarlo avanti. Sergio, provincia di Como, buongiorno. Buongiorno. Dica. Un abbraccio non solo al mister, ma alla parte del mister che è ancora un grande giocatore, almeno nella memoria di chi ha più di 30 anni, diciamo così. Io ne ho 50 e quindi non posso non abbracciarlo. Però non lo chiami mister, non lo chiami mister, eh? Eh? Non lo chiami mister. Ah, sì, certo, appunto. Volevo dire, avete al fatto, coach. Dire, una diagnosi al capezzale del grande malato. La cosa più importante è la consapevolezza che sia malato. Allora, parliamo di serie professionistiche, va bene, ma non è lì il grosso problema, secondo me. Il grosso problema è quelle pseudo dilettantistiche, quelle che proprio dalla promozione in poi portano dentro le squadre 5-6 stranieri e a volte anche di più. Poi c'è un intervallo dove in una serie non si può fare, ma nella serie successiva sì. Cose ridicole. Cioè, se noi in qualche modo riusciamo a portare il movimento dalle piccole serie, dalla persona che forse in qualche modo in Serie A non giocherà mai, ma alla fine è un movimento reale in questo modo, noi non abbiamo più in nessuna maniera un movimento reale. Abbiamo, mi servono due giocatori, li prendo in Argentina più che da un'altra parte. Questo oggi è la situazione del basket, quindi prima di pensare forse alla Serie A con un numero calmierato, ottimizzato, non sta a me dirlo, di stranieri o di pseudo. Sì, no, è quello che stava dicendo prima, grosso modo, mi pare di capire, Charlie Recalcati, cioè che il professionismo non sono solo quelle 34 squadre a cui fa riferimento Maurizio Gherardini, ma sono tutte le realtà della B1, in parte anche le realtà della B2, no? Dove spesso i giocatori italiani vanno a cercare contratti più ricchi, c'è una contribuzione perché... diversa. Esatto. Sì, è così, però volevo aggiungere un'altra cosa se posso. Sì. E allo stesso tempo, logicamente da lì deve ripartire il movimento, una piramide comincia dalla base, non cerchiamo di, certamente attraverso scelte illuminate di qualcuno che sarà al vertice, ma la base si deve riallargare, porteremo avanti i giocatori come abbiamo in qualche modo sempre fatto, ma se per caso questo non fosse, accontentiamoci di quello che sarà il nostro livello. In questo momento non c'è un livello, è un livello isterico nato da un niente. Però volevo dire, Bianchini ha detto qualche giorno fa, ho letto sulla Gazzetta, mi sembra, di quella storia su dovrebbero giocare solo i giovani e le serie minori. No, come al solito, dovrebbe giocare chi merita. La comitata in faccia del vecchiaccio, che ti fa capire tante cose, ti fa ancora bene. Sì, cioè, ma gioca chi merita e anche chi vuole andare in nazionale, perché anche Charlie può dirlo, insomma, quest'estate si è trovato anche di fronte a dei rifiuti di andare a giocare con la nazionale. Quindi in nazionale ci va chi merita, senz'altro, chi è disponibile. Anche a farsi 2 mesi a Bormio, allenarsi tutti i giorni dopo che ha fatto una stagione pesante. No, Charlie? No, io sono d'accordo, i problemi sono tanti, per cui il nostro ascoltatore ha perfettamente ragione. Io credo che non esista, come in tutte le cose, non esistono gli estremi. Non va bene il bianco, non va bene assolutamente il nero, bisogna riuscire a trovare poi, insomma, delle tonalità diverse strada facendo. È chiaro che i problemi sono tanti, e quindi anche il discorso dei campionati che sono sotto quella che è la Lega Nazionale vanno un pochino considerati. Quando io parlavo di troppe squadre professionistiche mi riferivo anche a quelle squadre addirittura al di sotto della B dilettanti. Come, perché è stata ricambiata, riformulata la dizione, adesso c'è la A dilettanti, la B dilettanti, la B2, insomma, la B2, tanto per intendere, ma anche ecco, nei campionati regionali che c'è qualcosa che non va, che deve essere sistemato. Io ho una mia idea, io ho parlato appunto di riforma dei campionati perché vanno un pochino rimodulati, perché bisogna ridurre il numero delle squadre. Secondo me vanno ridotte anche il numero delle serie. Certo. E bisogna rivedere anche quali devono essere i campionati gestiti direttamente dai comitati regionali e quali no. E si potrebbe trovare anche da questo punto di vista qua un qualcosa che potrebbe essere stimolante e interessante, tipo un campionato gestito dai comitati regionali che sfoci poi in una sorta di Final Eight o Final Four che potrebbe essere, certo, a livello nazionale. Sì, ma ci sono tante cose da fare. È chiaro che bisogna cercare di modulare. Io credo che quello che manca ed è mancato e sta mancando in questo momento è una conseguenza logica di tutti i campionati, partendo dal primo, arrivando al campionato professionistico, così come bisogna fare una conseguenza logica, come dicevo prima, della formazione dei giocatori. Stiamo a Kenzo, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo intervenire in merito a ciò che è stato detto all'inizio trasmissione per quanto riguarda l'esclusione di Napoli e Capodorlando. Sì. Condivido pienamente quello che ha detto lei, signor Suardi, davanti a evidenti inadempienze per mancati pagamenti di EMPAS e quant'altro, cioè, è inutile stare a fare ricorsi, anche perché ricordiamo che società molto più blasonate quali Virtus Bologna e Pesaro hanno accettato di buon grado, quando fu il loro momento, l'esclusione. Poi voglio ricordare una cosa, che presidenti oculati, saggi, intelligenti e tutto ciò che di buono si può dire su Corrado ne vedo pochi in giro, perché voglio ricordare che una stagione 2001-2002 o forse quella successiva, all'epoca dei quattro moschettieri a Cantù, Cantù raggiunse una inaspettata qualificazione in Eurolega, ma Corrado disse: se noi partecipiamo all'Eurolega, a tempo due anni spariamo, cioè scompariamo. Sì, e sì. Purtroppo c'è gente che si lascia attrarre da, non so, da esposizioni mediatiche e quant'altro, e non pensa a ciò che può accadere in futuro. Noi canturini ringraziamo sempre Corrado per questa sua scelta, e sempre per quanto riguarda Cantù, se avete tempo, se potete darmi una vostra opinione sulla nuova squadra, vi ringrazio e vi ascolto per l'anno. La facciamo dare da Charlie Recalcati un'opinione sulla nuova squadra. Beh, l'opinione sulla squadra, io non l'ho ancora vista la squadra, sono rientrato da poco, però chiaramente vivendo a Cantù notizie magari non freschissime, però insomma ho notizie. So che è una squadra che piace, detta da chi l'ha vista giocare. Ho letto dichiarazioni di Dal Monte, sono sicuramente di un allenatore gratificato da ciò che la squadra sta facendo, da come la squadra sta rispondendo non solamente in partita ma anche negli allenamenti. L'impressione mia è che sia stata cambiata un po' la politica societaria, e credo che questo sia abbastanza scontato, considerato che è cambiato il proprietario. E adesso credo che fossero parecchi anni che non arrivavano a Cantù americani già collaudati. Cantù è stata, e lo ha fatto anche quest'anno in parte, ha questa grandissima qualità di andare a scovare, grazie a Bruno Arrigoni, giocatori nel sommerso, giocatori molto giovani o nel sommerso dei campionati europei non di prima fascia, e ci hanno sempre visto bene. Adesso Cantù sta intraprendendo una nuova strada, che è quella innanzitutto di aver preso giocatori già collaudati e quindi già sicuri del loro ruolo all'interno del campionato italiano, sta programmando di non farseli portare via come capitava in passato, quando i migliori giocatori venivano, poi l'ultimo caso è quello di Woods che è andato a Treviso quest'anno, e questa nuova proprietà sta cercando di garantirsi un futuro e una programmazione, perché mi risulta che tutti i contratti siano stati fatti biennali, e questo è un segnale, positivo, concreto di voler guardare al futuro. Charlie, siamo in chiusura, ti faccio una domanda secca. vedi un'alternativa a Siena per il campionato, quando sarà campionato e quando, se Dio vuole, partirà? Io credo che sarà un campionato meno scontato di quello dell'anno scorso. Credo che sarà meno scontato perché le avversarie di Siena non partiranno ad handicap come è stato lo scorso anno, quindi sono meglio attrezzate, sono arrivati tanti giocatori interessanti. Credo che da questo punto di vista, il nostro campionato ha fatto un po' un'inversione di tendenza. Per anni abbiamo perso giocatori importanti, quest'anno sono arrivati giocatori importanti. Le avversarie di Siena si sono sicuramente attrezzate, saranno più pronte dell'anno scorso all'inizio del campionato, però credo che la favorita numero uno rimane Siena. Siena è più competitiva di quanto lo fosse l'anno scorso, lo è più competitiva perché ha cambiato dandosi paradossalmente una struttura di squadra migliore di quella dell'anno scorso. Certo. Siena che si chiamerà, tanto abbiamo due secondi per dirlo, lo possiamo dire, si chiamerà Montepaschi ancora per i prossimi 3 anni, e questo mi pare garanzia di basket ad un certo livello per Siena ancora per un po'. Sì, vabbè, ma Siena ormai ha il chiodo fisso, che è quello che l'anno scorso è scivolato via dalla parete in maniera incredibile con il Maccabi Tel Aviv. Io ringrazio Charlie Recalcati per essere stato con noi, per aver aperto con noi, come meglio non si poteva, la stagione di Pallaspicchi. Poi naturalmente era in programma dal 5 di ottobre la domenica del basket. Come sapete, dopo il GR delle 20 vi raccontiamo dai campi i risultati. Domenica 5 ottobre metteremo dei dischi. Sì, penso proprio di sì. Perché ho l'impressione che lì non... anzi, la certezza che lì non si partirà. Grazie ancora Charlie. Grazie a voi. E buon lavoro soprattutto. Grazie a Flavio Suardi. Ci ritroviamo venerdì prossimo. Gigi Borghi in redazione, Filippo Aureggi in regia. Buona giornata a tutti.